Ragnar Piser. Control Radio. My father's name was Elijah. And my name is Ragnar Piser. Lunedì 15 giugno, buonasera a tutti. Questo è Controradio, siete sintonizzati alle 9, mezz'ora e qualche minutino. Ragnar Piser, come tutti i lunedì. Si avvicina la fine della stagione anche per quest'anno. Quindi sul finale, stasera abbiamo un puntatone con un po' di ospiti. Si può anche già dire chi c'è: Manu Archeo e Umberto Saba. Che ci suoneranno un bel po' di musichetta fino alle 22.30. Nel frattempo c'è Duccio, ma ci risentiamo fra pochissimo. State qua fino alle 22.30. sei? Certo. Ci sei, ci sei? Ci sono. Io ho messo questo tappetino in loop. Tra l'altro un mio beat mai uscito di, non lo so quanto, 10 anni fa. Un unreleased. Sì, unreleased. Si potrebbe masterizzare su CD e metterlo qui nel cassettino dove c'è i tappetini. Esatto. E i tappetoni. No, su cassetto. Masterizzare su cassetto. Su cassetto. Lo metti lì così sei sicuro non lo suona nessuno. Allora, giusto velocemente, le prime due tracce che ho suonato in apertura sono del nuovo EP in uscita il prossimo 29 giugno per Hyperdub, di DJ Rashad. Si chiama 6613 EP e niente, esce a un anno dalla morte di DJ Rashad e i proventi di questo EP andranno alla famiglia, quindi sapete già cosa dovete fare. Io direi di dare subito spazio agli ospiti, Li hai già annunciati? Certo, è chiaro. Certo. Li hai già annunciati, noi intanto diciamo delle serate, eh? Eh sì. Diciamo delle serate, che così anche queste ce le togliamo. Cioè ce le togliamo, nel senso, esatto. Almeno poi dopo lasciamo si a dritto. Si snelliscono le cose da dire. Le serate sono le seguenti: domani, martedì 16, ci sarà a Move On, che è in Piazza, cioè, Duomo. Locale, birreria, negozio di dischi in Piazza Duomo, davanti al Battistero, non è proprio Piazza Duomo, è Piazza San Giovanni quella. Sì, sì. E Kazuma più ad aprire Lorenzo Fortino e io, Duccio, me medesimo. Kazuma, insomma, per chi non lo conosce, Deda, ex Sangue Misto, che dal 2004 ha intrapreso questo suo progetto molto funk, disco, boogie. Insomma, seratona. Merita, sì. Merita. Invece, Marte, diciamo che siamo nella settimana di Pitti, quindi insomma, le serate sono numerose. Giovedì e mercoledì, che è il 17, invece alla Spiaggina sull'Arno e San Niccolò, ci sarà niente di meno che Soul Clap, serata organizzata a Braccialini per... accessori per la Ducati, esatto. Braccialini per accessori, la nuova linea di accessori per la Ducati. Ci saranno appunto Soul Clap, Umberto Saba e DJ Hendrix ad aprire. Mentre giovedì si ritorna al Move On Piazza San Giovanni, dove DJ Manu dell'Archeo Recordings aprirà la serata a Luca Trevisi. Attenzione. E anche qua, insomma, c'è poco da vecchia dire. Scuola Bologna, non c'è bisogno di presentazioni. Andate su Google, scrivete Luca Trevisi e vi viene fuori il mondo. Infine, venerdì 19, sempre Manu Archeo sarà al Rivalta, aperitivo lungo, 19-23. Quindi, insomma, ve lo beccate adesso nella selezione di Ragnar Paisa. E poi lo inseguite per tutta la settimana. Poi lo inseguite per tutta la settimana nelle varie serate. Partiamo con la prima uscita. Io vorrei far sentire la prima uscita dell'Archeo Recordings, che è uscita a fine settembre del 2014. Questo è Tony Esposito, Gena. Intanto ce lo sentiamo e poi ne parliamo un attimo. Bye. che bomba, ragazzi. Questa è Jenna, singolo di Tony Esposito. Sull'altro lato c'è Pagaia, altro pezzo clamoroso, proprio seminale. A chi piace, comunque conosce, colleziona lo stile balearica, questo è proprio un fondamentale. Classic, fondamentale. 12 pollici, uscito a fine settembre del 2014, e mi raccontava Manu questa cosa, che questa in realtà è la AR002, cioè la Archeo Recordings 002, il codice, perché lui aveva fatto anche il... aveva già preparato le prime due uscite, e in realtà, perché voleva fare la prima uscita, voleva fare questo gruppo fiorentino, questo 12 pollici, questo gruppo fiorentino, per scaramanzia. In realtà poi è arrivata prima la seconda uscita Tony Esposito, e quindi ha fatto uscire la R002, e questa cosa ha creato subito del suspense, certo, in tutti rete, subito, dico, oddio, è la prima, è la prima, mi sono già perso la prima e la seconda. E niente, questo è uscito sia in, fra l'altro questa uscita è andata benissimo, perché è uscita... Chiaramente le uscite di Archeo Recordings sono tutte a tiratura limitata, e quindi insomma, appena escano, beccatevele subito, perché poi non le ritrovate, e escano una piccola, diciamo una piccola tiratura in vinile colorato, e il resto in colore nero. Questa è uscita in colore azzurro, colore blu, insomma, sì, sì. Colore blu e il resto colore nero, e è andata talmente bene che ne è stata della parte nera, diciamo, della versione nera, ne è stata rifatta un'altra stampa con il centrino diverso. Ah, okay. Comunque ne è stata fatta un'altra stampa. Adesso ci andiamo a sentire la seconda uscita su Archeo, che in realtà sarebbe la R001, sì, sì. Che è Radio Band Radio Rap. Vai. Nasce un'idea, cantare una canzone, te che stai ascoltando con tanta simpatia, anche se canto stonando. Noi siamo dei disgiochi dalle mille esperienze, e tu ascoltaci guidando per le vie di Firenze. L'oroscopo, notizie tardi, corro veloce, ma quel che conta è che ti giunga chiara la voce. Degli anni 60, ok, io ti accontento con il cielo in una stanza. Ti faccio un bel messaggio, Martinelli, Righeira. Tu resta qui all'ascolto che ti passa la sera. Che voce nella notte, senti che fantasia. Noi siamo tanti amici, trasmettiamo allegria. Savage, Gazzivo, Twins, Stallone. Rimani in sintonia, non cambiare stazione. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio niente, ci fa, ci fa due rime anche te? Ora ci fa due rime anch'io. Ci fa due rime di legno, di buono. Due rime di mogano ci fa. Mi fai beatbox sopra, però. MC Pinocchio fa due trucioli su sta, su sta base. Su sta basarda maliarda. Allora dai, dai, siamo seri. Questa è. Senti. Ma senti che roba. MC Rispoli, ti posso fare un freestyle con la voce di Rispoli? Un freestyle, allora, dai tappeto volante. Freestyle direttamente dal tappeto volante. Allora, questo è Radio Band, Radio Rap, 12 pollici. Anche questo mi sembrerà strano, però questo è un 12 pollici abbastanza introvabile e che costa parecchi soldi. Questi, i Radio Band erano il gruppo di DJ di Radio Fantasy. Dove ci faceva parte Faber, Carlo Conti, MC Carlo Conti e Faber F. questo 12 pollici che Archeo ha ristampato anche in colore giallo, è un'uscita, ti direi, è una roba fatta quasi per scherzo, però poi è diventata un'uscita di culto perché addirittura tipo Ronardi iniziò a suonare la strumentale che comunque trovate nel B-side del 12 pollici. E poi niente, poi è stata inserita, non mi ricordo, credo nel volume 1 delle compilation originals che Claremont 56 ha fatto. Era quella a cura di Balearic Mike e Monboot. Insomma, la versione è stata inserita lì dentro. Quindi niente, se non volete spendere un botto di soldi volete aspettare di trovare Carlo Conti in giro, esatto, e chiedergli una copia, magari gli è rimasta, vi comprate quella di Archeo Recordings, che magari ve lo sto dicendo, ma magari non la trovate neanche più. Sentiamoci la terza uscita, che è Miro Safari of Love. Miro, non Miro. We'll be right back. Ale, un assaggino. Un assaggino, abbiamo voluto dare un assaggino di tutto e comunque un attimino parlarne, perché cioè io ci tengo molto a, io ho una vita che voglio Umberto qua e comunque mi fa un gran piacere, cioè da tanto che diamo la caccia anche a Manu per averlo qua in radio, perché cioè veramente è un'etichetta che non fa uscite così a casaccio, ma ristampa comunque delle cose precise che non sono state ristampate, insomma dando un tocco nuovo, insomma è un'etichetta che fa le cose come si devono fare e poi fa uscire delle bombe. Questa di Miro è un altro 12 pollici Safari of Love, Miro pseudonimo di un artista italiano, non ricordo di dov'era. Comunque questa è una roba dell'epoca italo disco, però eccoci, cioè comunque è una roba con influenze acid, con questi strings come un po' alla Vangelis, colonna sonora, queste robe così, un po' colonna sonora anche. 12 pollici anche questo, abbastanza raro e costoso, che uscì su Vedette, ristampato in colore verde perché Miro si colorava la barba di verde allora ristampato anche in colore verde. Questo è Safari of Love. Adesso ci sentiamo una traccia estratta da la prossima uscita, che uscirà a breve, imminente uscirà a breve, e che è niente meno che questa volta un LP, non più un 12 pollici ma un LP di Suonando la batteria di Tullio De Piscopo. Holy Grail, finalmente qualcuno ristampa Suonando la batteria moderna di Tullio De Piscopo, perché veramente Holy Grail, cioè questo è un disco che costa veramente tanti soldi, ricercato da tutti, esatto, poi c'è anche comunque difficile da trovare in buone condizioni, perché era un disco comunque questo che veniva utilizzato in teoria dai batteristi per imparare a suonare la batteria, cioè il disco c'era dentro il disco originale, c'è gli spartiti, insomma. Quindi ecco, magari lo trovi con la copertina strappata perché il batterista si teneva lo spartito sui ginocchio per rifare il break. Qua ci sentiamo Medium Rock, questo è AR004, Tullio suonando la batteria moderna. Vabbè, oh. Questo è un break poi ipercampionato, chiaramente, perché super libreria di batteria Tullio De Piscopo, vabbè, uno dei più grandi. Lasciamo, non ci dilunghiamo, diciamo solo che rigorosamente dopo aver ascoltato la trasmissione potete andare a beccarvi, sempre che non incominci a piovere, speriamo di no, vi andate a beccare Biga e Miki Semascus, This Deal With The Feelings, con la partenza delle serate del lunedì sera estive al Laghetto dei Cigni, off bar della Fortezza d'Abbasso. Adesso DJ Set, Umberto Saba, Manu Archeo fino alla fine, puntata. 22:30 Ragnan Paisa. to come. The flow of energy, energy, energy, energy. Here it is, here it is, here it is, here it is. Nameless, nameless, nameless, nameless. Timeless, timeless, timeless, timeless. Speed of light, light, light, light. Float beyond fear, fear, fear, fear. Float beyond desire, desire, desire, desire, desire, desire. Into this mystery of mysteries, mysteries, mysteries, mysteries. Through this gate, gate, gate of all wonder, of all wonder, of all wonder. Open, naked, I. Thank you. di tigre, che altro c'è? Sarà d'avorio il desiderio che ho di te. Ti togli l'anello, so perché, a dita libere ti inviti su di me. Odore di dolce avidità, commercio di pelli si farà, a fili scoperti ci tocchiamo, vediamo qua giù che scossa fa. Manchmal schwarz, manchmal weiß, denn ich weiß. tenderness as my hope in a life. Glitz and beauty shall defend it, though I think by design.